Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! E eccoci qua con una nuova puntata del Loro dei Balcani. Benvenuti a tutti, buonasera cari bombate e bombattesse in ascolto. Siamo qui alla seconda puntata appunto del Loro dei Balcani in solitaria. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Serbia e del caso che la sta un po' scuotendo negli ultimi giorni, che riguarda appunto la Marja Lukić, che ha subito delle molestie sessuali dal suo capo, Milutin Jelicic, detto Jutka, che è il sindaco della città di Brush, e quindi insomma di tutto ciò che poi concerne questa notizia. Parleremo anche invece della Croazia, parleremo di Croazia e di come ci siano stati negli ultimi tempi molti episodi di odio razziale, etnico e insomma diffuso, questione che preoccupa tutti. Chiaramente partiamo dalla notizia di Marja Lukić, perché comunque ci avviciniamo all'8 marzo, la festa della donna, anche se chiaramente questo ci deve ricordare che non dobbiamo ragionare della questione delle violenze e di tutto come è formato tutto il nostro sistema nei confronti della donna. Bisogna lottare tutto l'anno, quindi vi rimando poi anche a tutte le cose che seguiremo nel fine settimana tra la manifestazione e altre situazioni, anche le altre rubriche sicuramente ne parleranno, ma noi abbiamo scelto appunto di parlare della parte balcanica appunto di questa questione, in particolar modo della Serbia. E comunque, bando alle ciance, ci saranno altri contenuti, ma anche tanta musica. E allora partiamo subito con il primo pezzo, The Real McKenzie. Ci suonano e Cheers. Chip up the gangplank of the ship, and they bit him and they tortured him until he finally flipped. He stammered to the captain to turn around his rig. The captain spied his madness and they chucked him in the brig. The devil had his man, he knew just what to do. He'd command the rats into the planks they'd chew. aboard the ship. I say to him, my master, I will get you chip. I learn when goes a flip. I yard prepare the ship. I say to him, my master, I will get you chip. I learn when goes a flip. I yard prepare the ship. I say to him, my master, I got you chip. Ed eccoci qua. Allora, eccoci, siamo allora in apertura. Voglio ricordarvi subito la nostra email postawombat@insiberia.net, che ho per l'appunto qui avanti a me aperta. Quindi se volete comunicare con me, in generale con tutto il Wombat, potete scrivere a questa mail. In particolare con me, ecco qua, ce l'ho aperta qui davanti a me. Se volete aggiungere, mandare contributi o dire che faccio veramente schifo, prego scriveteci a postawombat@insiberia.net e poi in generale wombat.noblogs.org, dove il sito dove trovate tutto e dove probabilmente mi starete ascoltando. Abbiamo anche Twitter, twitter.com/radiowombat.firenze, e il Facebook, Radio Wombat Firenze. Ci trovate lì. Benissimo, allora iniziamo con questa puntata, entriamo nel vivo. Vi dicevo appunto che dedichiamo questa prima parte della puntata all'8 marzo, ricordandoci sempre che si lotta tutto l'anno per migliorare questo mondo e quindi anche il rapporto fra la società e la donna. E partiamo appunto da una notizia che sta scuotendo in questi giorni la Serbia, e è la notizia che parla della vicenda di Marja Lukić. Come vi dicevo in apertura, passiamo un gocciolino. Come vi dicevo in apertura, Marja Lukić, ex segretaria del sindaco di Brus, una città serba, Milutin Jelicic, soprannominato Jutka. Ella ha subito una molestia sessuale da parte del suo capo per 2 anni. Prima di decidere di parlarne pubblicamente e di sporgere denuncia. Chiaramente questa l'ha aperto a una situazione di ostracismo mediatico enorme. Ma andiamo in ordine. La scorsa settimana Milutin Jelicic, che è anche un funzionario del partito di governo, ha annunciato con un comunicato stampa le sue dimissioni. Okay? Quindi il sindaco di Brus, ex sindaco di Brus, ha annunciato le sue dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti, motivando la sua decisione con il fatto di voler difendere il presidente serbo Aleksandar Vučić dalla gogna a cui è sottoposto ormai da un anno, orchestrata dall'opposizione e da vari provocatori ai fini prettamente politici. Questa era proprio la citazione letterale di ciò che ha detto mentre che dichiarava le sue dimissioni, dimissioni che poi in realtà non c'entrano niente con questa cosa, questa è solamente una copertura, ma principalmente legato proprio a questo scandalo che è uscito e che ora vado a raccontarvi. Comunque, a parte questo comunicato stampa, non c'è nessun documento che attesti che Jelicic si sia effettivamente dimesso da sindaco di Brus. Quindi questa cosa anche che si contrappone fra ciò che è stato dichiarato e poi in realtà gli atti notarili che effettivamente non danno Jelicic come effettivamente dimesso. Stando a quanto riportato dai media, le dimissioni di Jelicic non sono ancora quindi pervenute al protocollo del comune. E la prossima seduta del consiglio comunale, nella quale potrebbe essere discussa la sua eventuale dimissione, quindi deve essere discusso, dovrebbe tenersi tra 3 mesi, quindi in realtà fondamentalmente fino a che non si arriva al prossimo discussione comunale, innanzitutto non si è assolutamente dimesso. Giusto. Jelicic è stato denunciato per molestie sessuali da 7 donne, oltre alla prima, che è stata appunto Marija. Ma la procura ha sollevato l'accusa contro di lui solo sulla base delle denunce sporte appunto da quest'ultima. Nel frattempo una parte dell'opinione pubblica serba si è schierata a difesa di Marja Lukić, chiedendo a Jelicic che venisse destituito e processato, come è giusto che sia. Nei 2 anni in cui è stato segretario, Jelicic, Marja è stata sua segretaria, madre di 2 figli, e ha ricevuto circa, sentite bene, 15.000 messaggi dal suo capo, il cui contenuto non ha lasciato dubbi sul fatto che si sia trattato di molestie sessuali. Per tutto il tempo, come ha spiegato anche Malgia, ha cercato insistentemente di baciarla contro la sua volontà e di toccarla, chiedendole un rapporto sessuale in cambio di un avanzamento di carriera. Dal momento che le sue richieste di aiuto rivolte a diversi rappresentanti dell'amministrazione locale sono rimaste inascoltate, cioè si sono girati dall'altra parte, Maggio ha deciso di pubblicare sul suo profilo Facebook, e lì è la prima volta in cui è uscita questa denuncia, i messaggi ricevuti da Jelicic e di consegnare alla procura le prove delle molestie, minacce e atti vessatori subiti. Il giorno prima di spongere denuncia, che era nel marzo del 2018, ma ha già ricevuto un suo messaggio in cui le diceva che poteva denunciarlo da Jelicic, denunciarlo per qualsiasi cosa, ma che lui è protetto dal presidente Vučić, il presidente in carica. Il giorno dopo aver presentato la denuncia, Marcia è stata licenziata. Quindi questa è stata la prima reazione, e quindi non solo licenziamento ma anche un messaggio intimidatorio. Il messaggio però corrisponde al vero, perché effettivamente è evidente che sia protetto dal primo ministro. Non è finita lì però. Alcuni uomini vicini agli Elici ci hanno cominciato a minacciare apertamente Maggia e la sua famiglia, mentre l'amministrazione comunale di Bruce ha disposto l'ordine di demolizione di un locale di proprietà del marito di Maggia. Quindi sono continuate appunto queste azioni intimidatorie. Non esco più di casa, dice lei, non vivo più nel mio appartamento perché ho paura. Non mando i figli a scuola perché ho paura. Temo per la mia incolumità e per quella della mia famiglia, ha dichiarato appunto Maggia. Maggia ha inviato una lettera aperta al presidente Vučić, in cui ha scritto anche alla ministra Zoran Mihajlović, che è praticamente la responsabile dell'ufficio per le pari opportunità, quindi proprio ad hoc del governo serbo, nonché alle donne dell'SNS, che da alcuni mesi promuovono una campagna intitolata Stop Nasilju nad ženama, cioè stop alla violenza sulle donne, ma non ha ricevuto nessuna risposta. Jelicic ha ignorato completamente le accuse mosse nei suoi confronti, affermando persino che Marja inviava, sentite qua, inviava messaggi a se stessa e che il suo telefono era scomparso alcuni giorni prima che i messaggi venissero pubblicati su Facebook. Quindi ha detto che gli è stato rubato il cellulare e che l'ha mandato lei questi messaggi. Non si è scomposto nemmeno quando alcuni media hanno riportato le testimonianze di altre donne che lo hanno denunciato per le molestie sessuali, né tantomeno quando molti cittadini si sono mobilitati sui social network in segno di solidarietà appunto con Maggia, lanciando l'hashtag Pravda za Marjlukic, cioè Pravda, l'abbiamo già sentito in altri slogan, giustizia per Marja Lukic, chiedendo che la violenza contro le donne venisse sanzionata. Jelicic si sentiva protetto e potente, a tal punto che ha invitato il presidente del tribunale di Bruce, quello che dovrebbe giudicarlo, e i rappresentanti dell'ufficio del procuratore distrettuale a una cerimonia organizzata dal comune di Bruce, e così facendo ha inviato loro un chiaro messaggio, quindi, su come dovrebbero comportarsi in merito alle denunce nei suoi confronti. Quindi lui risponde imbandendo una festa, intimidendo e facendo dichiarazioni false. L'avvio del processo penale a carico di Jelicic è stato più volte rinviato perché l'imputato non si è mai presentato in aula, e quando all'inizio di febbraio di quest'anno, 2019, il processo è finalmente iniziato, il giudice ha vietato ai giornalisti di assistere alle udienze, violando in tal modo la legge. È stata respinta anche la richiesta di Maggia Lucias affinché il processo si svolgesse in un'altra città a causa del possibile pregiudizio e dell'imparzialità dei giudici del tribunale, vista anche la festa indetta appunto da Jelicic. Negli ultimi giorni di febbraio, sui social network hanno cominciato a circolare alcuni dati personali di Marja Lukic contenuti nel suo fascicolo sanitario. Quindi chi poteva, da dove poteva trapelare queste, dove potevano trapelare queste informazioni? Solo dal tribunale o dall'ospedale di Bruce. Tuttavia la procura finora non ha reagito a questa diffusione illecita di dati personali, quindi non solo ha iniziato tardi, sta rinviando la procedura contro Jelicic, ma anche di questa fuga di notizie. Perché è importante? Perché due giorni prima dell'annuncio delle dimissioni di Jelicic, Marja Lukic, ospite di una trasmissione andata in onda su TV Prva, ha parlato della sua lotta. Vi linkerò il video proprio di... che però purtroppo è tutto in serbo, quindi non ho potuto estrapolarlo, non si capiva niente, però andatevelo a vedere, secondo me comunque è interessante anche vedere come sono fatti, no? I TG, diciamo, le TV in Serbia. Tuttavia i suoi concittadini non hanno potuto seguire la trasmissione perché la in diretta, perché è stato spento il segnale del ripetitore che copre l'area di Bruce. Quindi il direttore di un operatore via cavo locale ha confermato questa cosa. I suoi dipendenti sono state fatte pressioni sui suoi dipendenti affinché spegnessero il segnale prima dell'inizio della trasmissione. Alla domanda su chi avesse fatto espressioni, chi avesse fatto pressioni, il direttore ha risposto: vi aspettate che io ve lo dica? Ma sapete già tutto. Let me down easy, Paolo Nutini. E rieccoci qua. Allora, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, stiamo parlando della Serbia, del caso di Marija Lukić contro Jelicic Jukta, che Milutin Jelicic, scusate, Jukta è il soprannome, che era il sindaco di Brest e che ha fatto delle violenze sessuali verso la sua segretaria. È uscito fuori questo caso e stiamo, appunto, abbiamo raccontato un po' tutta la storia. Però abbiamo parlato appunto proprio della vicenda in sé, ma c'è da ragionare anche di un altro fattore, appunto come si evince da quello che appunto ha detto quando ha annunciato le sue dimissioni Jelicic. Appunto lui si dimette perché non vuole che venga infangato, come fa sempre l'opposizione, il nome di Vucic, il primo ministro. Questo è sintomo appunto del fatto che è una questione che prende tutto lo Stato, chiaramente. Il fatto che Jelicic non sia stato ancora perseguito, che sia iniziato da poco e ci siano stati un sacco di rinvii nel suo procedimento, e poi anche il grave caso di diffusione di dati sensibili dell'imputata appunto in pasto a Facebook, poi vi racconterò appunto cosa è successo nella rete. È sintomo poi di tutto un sistema malato, ahimè, ne abbiamo parlato svariate volte per quanto riguarda appunto il primo ministro Vucic, e questo appunto rientra totalmente nel quadro. Milutin Jelicic, detto Jukta, è ben noto all'opinione pubblica serba, e la sua biografia illustra bene il modo in cui in Serbia il potere viene conquistato, mantenuto e rafforzato. Jelicic ricopre l'incarico di sindaco di Brus, che è un comune di 18.000 abitanti, ormai da 19 anni. Dopo ogni cambio ai vertici dello Stato, Jelicic cambiava partito, e fino a pochi giorni fa era il fiduciario dell'SNS nel comune di Brus. Qualche anno fa Jelicic è stato arrestato con l'accusa di abuso d'ufficio. Lui è tuttora sindaco. È stato più volte accusato di aver sottratto denaro alle casse comunali, sospettato di essersi arricchito in modo illecito attraverso la privatizzazione, le privatizzazioni che ha portato avanti, e indagato dalla direzione centrale della polizia criminale per presunte malversazioni. Era chiaro a tutti che Jelicic godeva della protezione dei vertici dello Stato, dunque, perché c'erano già pendenti, insomma, a carico suo queste accuse, e ancora ricopriva il ruolo che tuttora ricopre, o comunque ufficialmente non più, insomma, l'abbiamo detto prima, ma in pratica è ancora sindaco. Stando alle testimonianze di molti abitanti di Brus, nessuno poteva essere assunto né ottenere un avanzamento di carriera senza il consenso di Jelicic. Tutto dipendeva da lui. Fino a quando non è arrivata appunto Marja Lukic, che ha trovato il coraggio di denunciare queste molestie. In un paese conservatore e patriarcale come la Serbia, le donne subiscono quotidianamente violenze e molestie. Ma di questo argomento per lo più si tace. In una piccola città come Brus, dove tutti si conoscono, è pressoché inimmaginabile che una donna si ribelli alla violenza subita da un uomo, soprattutto se si tratta di un uomo potente. E che quindi protetto poi dalle alte sfere, appunto. La paura e la vergogna hanno impedito a Marja di denunciare subito le molestie ricevute, di parlare anche con suo stesso marito e di chiedere aiuto. Dopo che Marja ha raccontato la sua storia, grazie a quei pochi media che si sono occupati della vicenda, perché poi in tutto ciò ci sono stati anche i rifiuti della maggior parte dei media, e soprattutto di quelli mainstream, di portare avanti questa storia, perché era pericolosa. Era pericoloso mettersi, appunto, se con un ordine puoi permettere di spengere a una televisione la sua diffusione in un'area, vuol dire che si rischia grosso, però ne vale la pena. Dopo che Maggi ha raccontato la sua storia, grazie a quei pochi media si sono occupati della vicenda, ma anche grazie a una parte grossa dell'opinione pubblica che c'è, che è viva e che si fa sentire e che si sta facendo sentire anche nelle presenze contro Vucic, e anche in questa storia, in questa vicenda, per i diritti delle donne in generale, contro gli abusi, si sono schierati in maggior numero sulla rete, ma non solo. Si è schierata dalla parte della vittima, e pian piano è emersa l'immagine di una Serbia in cui i potenti arroganti, dai più alti livelli di governo ai villaggi più piccoli, hanno le mani libere per fare qualsiasi cosa. Il fatto che Marja abbia parlato della sua lotta contro le molestie alle manifestazioni di protesta dei cittadini che io vi ho raccontato e dell'opposizione a Brussa e a Belgrado, è stato sfruttato da Jelicic per motivare la sua decisione. E qui arriviamo anche a un altro al punto che vi dicevo. La sua decisione di dimettersi o la presunta volontà di difendere il presidente Vučić. Quindi lei che ha parlato all'interno delle manifestazioni di questo sistema marcio che in particolare si accanisce sulle donne, Jelicic ce l'ha girato come un attacco semplicemente politico. Margia continua a ricevere minacce, appunto, quindi vi dicevo, provenienti da una pagina Facebook intitolata, segnalatela, intitolata Pravda za Juktu, J-U-T-K-U, che vuol dire giustizia per Jukta, che è il soprannome appunto del sindaco, e dove i sostenitori di Jelicic le intimano di stare attenta a dove cammina. Cioè, prendiamoci conto, davvero non so più a chi rivolgermi né quando qualcuno reagirà, non mi sento al sicuro, temo per la mia famiglia perché alcune di queste minacce potrebbero concretizzarsi, ha dichiarato appunto Margie in un'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa. Margia Lucic chiede che Jelicic venga punito, giustamente. Una parte dell'opinione pubblica è scettica al riguardo, perché c'è molta frustrazione, appunto, soprattutto non si crede nella giustizia. In molti ricordano ancora il caso dell'ex ministro della difesa, Bratislav Gazic, non ve ne ho mai parlato. Aveva offeso una giornalista con commenti sessisti. L'opinione pubblica, sconcertata da questo episodio, aveva chiesto le dimissioni di Gazic per mesi, ma l'allora premier, chi sarà mai stato, Vučić, lo aveva semplicemente spostato dall'incarico di ministro a quello di capo della BA, che è l'intelligence serba, peraltro. Una parte dell'opinione pubblica aveva chiesto ripetutamente anche le dimissioni dell'ex sindaco di Belgrado, Sinisa Mali, questa è un'altra vicenda, coinvolto in numerosi scandali e accuse dall'ex moglie. Cioè l'ex moglie aveva detto mi picchia. Ma Mali non solo non è stato destituito, ma dopo la scadenza del mandato da sindaco è stato nominato primo ministro delle finanze. Beh. Commentando l'annuncio delle dimissioni di Jelicic, il presidente Vučić ha detto che in seno all'SNS, il partito appunto, la maggioranza, si è discusso di questo caso e che per loro è stata una questione complicata da affrontare, aggiungendo che condanna le violenze sulle donne, ma che bisogna aspettare di vedere cosa diranno le autorità competenti invece di emettere giudizi frettolosi. Autorità competenti controllate da lui e che rimandano questo processo. Per poi concludere, Vučić, affermando che Jelicic non ha mentito quando ha dichiarato che l'attacco nei suoi confronti è in realtà un attacco contro il presidente. Ebbene, quindi chiude qua la faccenda, la butta nel caso politico e non affronteranno il problema. Chissà, seguiremo questa vicenda come tutte le altre e staremo a vedere. Appunto, la denuncia, abbiamo detto, è del marzo 2018, però ancora ora è in atto, quindi vediamo un po' cosa succederà, anche perché le proteste, come vi stavo raccontando, al Belgrado continuano contro il primo ministro per tutto il malgoverno, per la corruzione, e anche per questo quindi si aggiunge un'ulteriore lotta più concreta all'interno appunto di questo movimento di rivolta. Quindi lo seguiremo ancora con entusiasmo. Cosa vi lancio? Vi darei, ma sì, The King is Dead, sarà l'ora di Vučić, The King is Dead, The Heart. Projected a size, well, nothing of the sort. Sold us so short, but down in champagne. No toast to the legacy. And all the propaganda of prosperity. That's what a machine does, and they don't need therapy. You turn us into a nation of haters. Fire right at Pisa, believing whatever kept your leader. Dog whistle through the speakers, see who bites it. Notice a hell of a lot of people like this. An ethical choice is simpler if you price it. Conquer by dividing, that's where you admired him. Unless pushed, we would never have retired him. Fucking pirate history will dance. Once it seemed like nothing could damage him. Sasha Liu Chi, the way Shang Tsung. Crook, you got your eyes played in Mandarin. Finally, the king is dead. We cried off with his head. Everything must change. Everything must change. We dance like New Year's Eve. We dance from relief. Everything must change. Nothing stays the same. Nothing stays the same. Oh. cats, I know we're feeling this like the rapture. And I can tell who this mood is failing to capture. It's like somebody finally did light that match up and burn down the parliament. Learn from the argument, can't be nonpartisan. When you're an artisan, you put your heart in it. That's not even a half of it. Like my man said, we're talking butter and bread. Better if his words we never uttered again. Mostly vindictive, who could have predicted? Just a few tax breaks to keep us all addicted. The dickhead, dictator, leader, imitator. Made me feel immature when I said, I hate ya. Did you read the paper the day after? I hear the laughter, I'll read it to you. It starts with M and Q and ends with you. No broader view for the people on your ship who you used to call crew. That's typical, now I guess it's difficult for the type of person only thinks of individual. No residual, you'll see our resilience. Take your bat and ball ahead for the pavilion. Finally the king is dead, we cried off with his head. Everything must change, everything must change. Must change. We dance like New Year's Eve, we dance from a leaf. Everything must change, nothing stays the same. Sheer relief, whoa. Everything must change. Just promise me this. No rose petal glasses. Quickly consigning to part of the past. Just promise me this. No rose petal glasses. Quickly consigning to part of the past. Finally the king is dead. We cried off with his head. Everything must change. Everything must change. Must change. We dance like New Year's Eve. We dance from relief. Everything must change. Nothing stays the same. Rieccoci. Allora, questo è l'Uno dei Balcani. Abbiamo parlato appunto di Serbia e appunto abbiamo detto ci siamo un po' concentrati appunto sulle questioni femminili in vista dell'8 marzo. Ribadisco, si lotta tutto l'anno, non solo l'8 marzo. Detto questo, vi lancio un'altra piccola notizia di oggi. Dalla Cecenia. In Cecenia sta suscitando dibattito in Cecenia l'istituzione di un servizio taxi destinato esclusivamente alle donne. Secondo la fondazione araba Sheikh Zayed, che finanzia tale progetto, questo servizio consentirà alle donne di rispettare le norme religiose che proibiscono loro il viaggiare sullo stesso mezzo con un estraneo. Dunque, tipo il bus, non è preso in considerazione. Nelle discussioni che si è aperta nel paese, che ha trovato terreno soprattutto sui social network, c'è chi sottolinea come questa iniziativa porti a un'ulteriore islamizzazione della società e chi invece pensa che non aggiunga nulla in più alle tradizioni e alle usanze del paese. Secondo me non vi è nulla di vantaggioso alla creazione di un taxi femminile, piuttosto un desiderio di mostrare agli investitori arabi che gli standard religiosi sono rigorosamente rispettati in Cecenia. Questa è la dichiarazione di un residente di Grozny e Kalyan Not, mentre una giovane studentessa di una madrasa ritiene invece sia positiva che si garantisca un trasporto pubblico separato per le donne. Quindi queste erano due visioni della questione che stanno appunto viaggiando all'interno dei social ceceni. Mi trovo un attimino più d'accordo con la prima. Se volete fare qualche commento su questa questione, mi raccomando, scrivetemi a posta wombat@censiberia.net oppure anche su Facebook. Cioè, ho aperto pure Facebook, quindi potete scrivermi pure lì. Il fondatore Sheikh Zayed è impegnato in Cecenia, è impegnata, una donna, in Cecenia nel 2017 nella formazione, consulenza e finanziamento degli imprenditori ed è nata da un accordo tra il capo della Cecenia Ramzan Kadyrov e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Balkan, bravo. E quindi effettivamente la prima affermazione che si tratti appunto non di un affrontare la questione, il problema, ma semplicemente ingraziarsi gli investitori arabi, degli Emirati Arabi, mi sembra abbastanza plausibile. Comunque, se volete commentare, io sono in ascolto. Ma andiamo avanti, con invece cambiamo paese, cambiamo anche un attimino tema, parliamo di nazionalismo, anche se poi sappiamo bene che sono intrecciati i temi, nazionalismo e revisionismo in Croazia, adolescenti, strumenti e vittime. Questo è, lo prendo da un articolo di Ivana Polic di fine febbraio, che parla un po' della situazione in Croazia e del fatto che si stiano aumentando gli episodi di violenza contro le minoranze, il razzismo, l'incitamento all'odio in generale, quindi un clima di odio. E la questione pesante è che spesso vede coinvolti i minori, e invece vede gli adulti indifferenti verso quello che sta succedendo. Quindi iniziamo a raccontare, analizzando la questione del revisionismo storico e facendo i conti con la sua storia recente e meno recente, la Croazia sembra essere uno dei paesi più problematici dell'UE. Questa è l'apertura appunto dell'articolo. Cosa è successo? Meno di un mese fa un video pubblicato da Ivan Penava, sindaco della città di Vukovar, ha suscitato l'ennesima serie di accesi dibattiti che hanno infiammato le tensioni croato-serbe nell'area, ma questa volta coinvolgendo i minori. Come vi dicevo, durante la conferenza stampa svoltasi nell'ambito del 27esimo anniversario della reintegrazione pacifica di Vukovar e delle regioni della Slavonia orientale nel sistema costituzionale croato, Penava ha denunciato pubblicamente un gruppo di studenti delle scuole superiori serbe che non si sono levati in piedi per onorare l'inno nazionale croato durante una partita di calcio locale. Quindi li ha denunciati, ok, pubblicamente. Penava ha mostrato ai giornalisti un video girato da lui stesso dove potevano essere chiaramente distinti i volti di questi studenti. Il video è stato anche messo a disposizione della pagina web del comune, fino a quando la richiesta dell'avvocato dei minori non ha costretto Penava a rimuoverlo. Questo, tuttavia, chiaramente non ha interrotto la circolazione di video su internet, che lo sappiamo, una volta che viene pubblicato poi si perde. Non potrei mai più cancellarlo veramente. Questo atto si inquadra in una serie di dichiarazioni e insinuazioni del sindaco sulla strisciante aggressione grande serba a Vukovar, anche 27 anni dopo la sua liberazione dalle forze militari e paramilitari serbe. Quindi dice che il fatto che loro non si siano alzati è un'aggressione serba contro l'essendirsi croati. Secondo Penava, i difensori croati combatterono per la stessa bandiera e l'inno nazionale, oggi offeso da questi ragazzi che non si sono alzati in piedi. E il sindaco si chiede pubblicamente chi li ha indottrinati con questi sentimenti anticroati. Questo è tutto pubblico, un paio di giorni dopo l'uscita del video, uno studente serbo della stessa scuola, dove questi studenti non si sono alzati, frequentata appunto allora, è stato brutalmente attaccato mentre tornava da scuola da un gruppo di minori con il volto coperto. Non è chiaro se l'attacco fosse motivato dall'uscita del video, ma i media serbi hanno attaccato duramente Penava per aver incitato all'odio contro la popolazione serba e più specificamente i ragazzi serbi a Vukovar. Questa cosa della pubblicazione e del buttare nella gogna mediatica ce l'abbiamo anche qui in Italia, anche in questi giorni, quella ragazza messa dal ministro Salvini, una gogna mediatica veramente schifoso, direi. Ma ci sono altre storie ben più terribili. Si parla di marchiature, Un episodio apparentemente non correlato, infatti, si è verificato la scorsa settimana in una scuola superiore nella città croata di Zara, quindi vicino ai nostri confini, dove uno studente ha marchiato il braccio di una studentessa con la lettera U. Che cos'è questa? Cosa vuol dire questa U? Vuol dire che sta per Ustascia. Il giornale croato Jutarnji List riporta che lo studente avrebbe detto alla vittima di origine albanese che ora può vantarsi di essere un Ustascia. Il presidente della scuola non ha interpretato questo incidente alla luce della sua natura violenta o dell'uso di termini relativi al regime fascista della Seconda Guerra Mondiale, ma lo ha liquidato come una normale provocazione tra studenti. Qualche tempo dopo, tuttavia, il caso si è fatto più complesso attraverso la diffusione di alcune foto su Facebook della studentessa attaccata che indossava una maglietta con la lettera U. Interrogato sulle azioni della figlia, il padre ha detto ai giornalisti che la studentessa aveva acquistato una maglietta convinta dai suoi insegnanti durante la recente gita scolastica a Vukovar, obbligatoria per gli studenti croati, tra l'altro di terza media, cioè tutti gli studenti croati di terza media devono fare questo viaggio a Vukovar. Ma lei non sa nemmeno cosa sia, cosa voglia dire questo simbolo U e che cosa siano questi ustasci. Questo è proprio, oserei dire, un veleno. A fra poco, vi lascio linea 77, il veleno. È già passato, invano cerco di fermare il tempo, semino paura, raccolgo fallimento, le due lancette suonano come bombe, picchiano come pugni, sangue sui sogni infranti e pace ai morti, la vita non concede il giorno degli sconti, guardo lo specchio, vedo uno spettro, poi mi ritrovo a fare a pugni con l'ombra di me stesso, e poi di colpo arrivano quei momenti in cui la vita ti costringe ad andare avanti, a tutti i costi, aggrappandoti ai ricordi, con le unghie e con i denti. La paura di morire è la scusa di chi non sa vivere, nella lotta contro se stessi il fine giustifica i mezzi. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. Scegli quel che vuoi, perché sai non si sa mai. Io rapirei e quel che sono ciò che sei. Scegli quel che vuoi, perché sai non si sa mai. Io rapirei e quel che sono ciò che sei. La terra, la morte, il cielo, la vita, il pianto, il fatto, il nero, l'uscita, la guerra, l'umano, la pace, l'alieno, il buio, l'antidoto, la luce, il veleno, il falso, l'odio, il vero, l'amore, il vuoto, l'infamia, il pieno, l'onore, il passato, lo sport, il futuro, il puro, la mia testa, contro il muro. Grazie a Dio, io non ho nessun Dio, non prego Sant'Antonio, nemmeno Padre Pio, io prego per un mondo disilluso, che a forza di far finta di niente è diventato sordo muto. Poi, come carcasse nel deserto, aspettiamo gli avvoltoi. Guardiamo specchi, vediamo spettri, ci ritroviamo a fare a pugni con l'ombra di noi stessi. E poi di colpo arrivano quei momenti in cui la vita si costringe andare avanti a tutti i costi, aggrappandosi ai ricordi con le unghie e con i denti. La paura di morire è la scusa di chi non sa vivere, nella lotta contro se stessi il fine giustifica i mezzi. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. Che sai non si sa mai. Io rapirei Eccoci qua, Wombati Wombattesse. Allora, ragionavamo della Croazia. Ragionavamo della Croazia, di casi veramente gravi che stanno succedendo, di violenza non fisica, cioè anzi fisica in quanto riguarda la marchiatura, ma anche mentale, pressioni tremende, e questo avanzare appunto del nazionalismo in Croazia. Vi dicevo appunto che questa ragazza è stata marchiata con la U, che vuol dire ostascia, e lei stessa, ma anche altri, sono stati costretti a comprare delle magliette con la lettera U. Che cosa sono gli ustascia? Allora, erano coloro che lottavano contro i turchi. In croato ustascia deriva dal verbo ustati o ustajati, che significa alzarsi in piedi, insorgere, ribellarsi. In seguito fu adottato dal croato di Bosnia Ante Pavelic per disegnare gli appartenenti, cioè per indicare gli appartenenti al movimento nazionalista e fascista croato di estrema destra, alleata dei nazisti tedeschi e ai fascisti italiani nella seconda guerra mondiale. Quindi questa marchiare U, in particolar modo la prima, la vittima della marchiatura è di origine albanese, vuol dire segnarli e per dirgli voi dovete essere appunto degli ustascia, dei lottatori per il nazionalismo fascista che si alleò con i nazisti. Insomma, avete capito qual è l'implicazione razzista e nazionalista in questo caso. Anche se questi eventi potrebbero non sembrare connessi fra di loro, quindi fra gli studenti che sono stati denunciati e messi su Facebook e su tutti i media da parte del presidente, dall'altra questa marchiatura e la marchiatura a fuoco appunto con la U di ustascia, questa studentessa, non sono in realtà interscambiabilmente collegati, e sono in realtà inestricabilmente collegati e profondamente preoccupanti. Da un lato le azioni del sindaco Penava sono moralmente discutibili in molti aspetti, e questo siamo tutti d'accordo. Com'è possibile che Penava, lui stesso un educatore, ex preside della scuola locale, abbia deliberatamente messo dei ragazzini al centro di una questione etnica estremamente delicata, senza nemmeno fare il minimo sforzo per proteggere la loro identità, anzi volutamente spiattellata. Invece di incolpare i giovani di divisioni etniche e di collegarli direttamente a eventi avvenuti molto prima della loro nascita, li ha collegati appunto al fatto che nella lotta fra nazismo e fondamentalmente il blocco comunista balcanico che reggeva appunto, in cui ci stava pure l'Albania, che fu prima invasa e poi dopo tutto il rimescolamento dovuto a Tito, e lui ha detto appunto che questi ragazzi sono stati indottrinati in un sentimento anticroato. E quindi com'è possibile che abbia fatto questi collegamenti una persona di spicco? La leadership locale nazionale non dovrebbe creare un ambiente in cui i minori siano protetti da ogni tipo di manipolazione politica, si chiedono alcuni giornalisti, specialmente se pericolosa come questa, dove le azioni dei ragazzi sono giudicate in base alla loro discendenza etnica. Dall'altra parte, l'incidente nella scuola superiore di Zara mette in luce le conseguenze di questo stesso problema. Se dei ragazzi possono usare liberamente parole come ustascia nella vita di tutti i giorni, indossano vestiti con tale simbolismo durante i concerti del cantante nazionalista Thompson, è ancora più allarmante. Possono invocare tali simboli nel contesto dell'incitamento alla violenza e odio verso gli altri. Non è da biasimare chi alimenta questo ambiente? Cioè, dice, se l'ambiente, questo appunto è l'articolo che vi stavo citando, se i giovani fanno queste azioni, non dovremmo prenderci a chi invece le alimenta, ma alimenta le azioni di odio, non chi alimenta un'azione di protesta. È molto più probabile che lo studente di Zara sia stato motivato dal puro disprezzo piuttosto che dal desiderio di trasmettere deliberatamente il contesto politico e storico della parola e della lettera che aveva usato per danneggiare fisicamente l'altra studentessa, cioè questa U che marchi è una derivata dall'odio, non dalla vera consapevolezza di questo giovane su cosa, che implicazioni abbia. Tuttavia ciò che indica un problema molto più grande, la normalizzazione dell'odio, cosa che sta avvenendo anche da noi, diciamocelo, dell'odio razziale, al punto che è diventato parte del vocabolario quotidiano dei ragazzi. I casi descritti qui sono non sono fatti isolati. Oltre un mese fa, infatti, il giorno in cui Sergio Torossi celebravano il Natale, il figlio di un deputato dell'Unione Democratica Croata pubblicava una foto di un ustascia che reggeva la testa di un cetnico, che sono i membri delle unità paramilitari serbe, precedentemente ucciso, ed è stato quindi costretto a scusarsi dopo che suo padre si è dimesso. Tempo fa studenti e insegnanti di una scuola elementare di Spalato hanno trovato le pareti esterne della scuola dipinte con graffiti che contenevano, tra le altre cose, i simboli e gli slogan ustascia, nonché le scritte odio la Serbia e odio i serbi. Siamo in Croazia. Questo è accaduto solo due giorni dopo un brutale attacco contro i giocatori della squadra di pallanuoto maschile serba di Spalato, quindi sempre della stessa città, da parte di un gruppo di teppisti che avevano etichettato i giocatori serbi come cetnici, appunto. Tali eventi richiedono una risposta urgente da parte delle istituzioni statali, in particolare quelle incaricate della tutela dei diritti dei minori, nonché delle organizzazioni non governative che si occupano di riconciliazione e dialogo interetnico, perché comunque sappiamo che in quella zona sono molto importanti. La questione serbo-croata è tuttora attiva. Senza azioni coerenti e tempestive da parte di questi attori, potremmo vedere queste generazioni diventare adulte, ci dice l'articolo, in un ambiente che condona la retorica e l'iconografia fascista, insieme a discorsi di odio rivolti alle minoranze. Con l'inerzia, il silenzio e la mancanza di risolutezza dei leader locali e nazionali, possiamo solo immaginare quale tipo di valori queste generazioni porteranno nell'età adulta. Quindi questo è il quadro, questa era la conclusione dell'articolo di Ivan Polic, pubblicato su balcanicacos.org, che ci fa un po' un quadro abbastanza deprimente, anzi abbastanza spaventoso, ma ci spaventa fino a un certo punto, nel senso che, ahimè, mal comune mezzo gaudio, questa cosa in realtà poi si sta espandendo, e anche nel nostro paese in particolar modo. Andiamo con un altro pezzo, un bel duetto, Pancreas e Modera City Rambles, Milano. Una certa abilità, nascondere gli intenti, dividere le genti, per loro è una fortuna, un'opportunità. Gli amici, quelli veri, te lo leggono negli occhi, il resto può sembrare ma non è la verità, perché i rapporti forti ti difendono dagli attacchi, la cosa più sicura è stare uniti finché va. C'è chi combatte e perde con la legge come han detto i Clash, e chi preferisce un mondo trash, senza storie e qualità. Ma c'è qualcosa che non quadra, proprio che non va. Noi siamo e rimaniamo perché siamo. La storia è stata scritta e quella resterà. E più ci dite di star zitti e di parlare piano, che da Modena a Milano il nostro grido s'alzerà. Raccontare le cose per quello che non sono, ha fatto un'arte, una sbarcabilità, far credere alla gente di essere unti dal Signore, quando invece sono fantocci senza alcuna dignità. Gli amici, quelli veri, te lo leggono nel cuore, lo spirito resiste nonostante la realtà. In questo mondo falso senza più nessun valore, la cosa più sicura è stare uniti finché va. C'è chi combatte e perde con la legge come han detto i Clash, e chi preferisce un mondo trash senza storia e qualità. Ma c'è qualcosa che non quadra, proprio che non va. noi siamo e rimaniamo perché siamo, la storia è stata scritta e quella resterà, e più ci vive di star zitti e di parlare piano, che da Modena a Milano il nostro grido s'alzerà. Te lo leggono negli occhi. Il resto può sembrare, ma non è la verità, perché i rapporti forti ti difendono dagli attacchi. La cosa più sicura è stare uniti finché va. Noi siamo e rimaniamo perché siamo, la storia è stata scritta e quella resterà. E più ci vive di star zitti e di parlare piano, che da Modena a Milano il nostro grido s'alzerà. Noi siamo e rimaniamo perché siamo, la storia è stata scritta e quella resterà. E più ci vive di star zitti e di parlare piano, che da Modena a Milano il nostro grido s'alzerà. Balkan. Eccoci qua, siamo in chiusura di puntata. Siamo in chiusura di puntata. Vi voglio segnalare un crowdfunding per How I Come Here, un documentario sulla rotta balcanica, i cui editori chiedono l'aiuto del web per portarlo a termine. La regia è di Davide Rabakin ed Enrico Masi. Nasce all'interno di un progetto di aiuto umanitario coordinato da Arci Trieste e ICS a sostegno dei migranti bloccati nei campi di Bihać e di Bihać e Velika Kladuša, di Velika che vi ho anche parlato all'interno dell'Euro dei Balcani, all'interno di Fuoco alle Polveri, proprio del reportage. C'è il crowdfunding aperto, appunto. Il documentario è una testimonianza e allo stesso tempo una denuncia di quanto sta accadendo al confine orientale dell'Europa, dove migliaia di persone, respinte in modo illegittimo e con violenza, sono ammassate in enormi campi del tutto inadeguati, con l'inverno che tra l'altro è in atto, insomma è appena passato. In Bosnia è in corso una guerra silenziosa e taciuta contro le organizzazioni e i collettivi umanitari, vi ho parlato anche di questo, che testimoniano giorno dopo giorno le violazioni dei diritti umani lungo la rotta balcanica e cercano di fornire aiuto concreto ai migranti. How I Come Here racconta la vita ai confini dell'impero, in un luogo dove i diritti sono rarefatti e spesso sospesi in favore delle politiche europee di esternalizzazione delle frontiere. Quindi andatevi a cercare questo documentario I Come Here. Potete trovare il link del crowdfunding, lo potete trovare sempre su Osservatorio Balconi Caucaso, ma non solo. E quindi, insomma, vi invito ad andare a dare un occhio. È importante che poi ci siano queste testimonianze e che si veda. La storia, come che dicevano prima, la storia è stata scritta e quella resterà. E poi faremo i conti. Quindi andiamo in chiusura con il pezzo dei Balcani della giornata. Ho scelto sempre su suggerimento, basta, ora mi diventerò autonomo, non è vero, ne ho scelti tanti, però il Dalai Lama mi ha suggerito uno giusto ieri sera, di Bialodugme, che Bialodugme, la cui traduzione è Bottone Bianco, sono stati il gruppo rock più famoso della Jugoslavia, gruppo dove suonava Goran Bregovic. Hanno realizzato nella loro carriera 13 album, vendendo più di 6 milioni di dischi e segnando la storia musicale degli ultimi decenni della Jugoslavia. Il gruppo viene fondato proprio da Goran Bregovic, che divenne leader della band fino allo scioglimento nel 1989. Bregovic aveva frequentato durante l'adolescenza la scuola musicale di Sarajevo per violinisti, dalla quale venne espulso per mancanza di talento, pensate. Poco dopo l'espulsione, la madre comprò a Bregovic una chitarra, evento che determinò la nascita dei Bialodugme. La band nacque come Jutro Mattina, si chiamava, nel 1974, con la realizzazione del primo LP, Kad bi bio Bialodugme, Se io fossi un bottone bianco, appunto. E quest'album si considera più affine all'heavy metal, dal quale in seguito il gruppo si allontanerà, dall'heavy metal, Nei primi anni, soprattutto opera del batterista Milic Vukasinovic, la band jugoslava era fortemente influenzata dai gruppi pionieri dell'hard rock come i Led Zeppelin e i Black Sabbath. Certo che sei influenzato dagli Led Zeppelin e Black Sabbath. Dopo l'uscita del singolo, Bregovic convinse il manager del gruppo a cambiare nome in Bialodugme. La band originaria era composta, quindi, oltre da Goran, dal carismatico cantante Zeliko Bebek, da Vlado Pravdic, che era il tastierista, Zoran Drednzik, bassista, e Goran Ipe Ivandic, che era il batterista. Nel 75 uscì il secondo album, Stabib Dao da Sinamon Mietsu, che vuol dire Balkan, che vuol dire cosa darei perché tu fossi al mio posto, che confermò l'adesione del gruppo all'hard rock classico, appunto, Led Zeppelin, combinato con elementi blues e di musica tradizionale dei Balcani. L'album vendette in 3 mesi più di 200.000 copie. Nel 76 Ipe Ivandic e Vlado Pravdic dovettero prestare servizio nell'esercito popolare jugoslavo e furono sostituiti da Milik Vukasinovic e Laza Ristovicki. A partire dalla metà degli anni 70 i Bialodugme iniziarono con una serie di concerti in tutti i maggiori centri della Jugoslavia, diventando uno dei gruppi più popolari. Nel 1977 venne organizzata dalla Aduća Česma nel parco Košutnjak di Belgrado un concerto gratuito a cui parteciparono tra le 70.000 e le 100.000 persone. Nel 1978 Bregovic venne chiamato dall'esercito e il gruppo si prese un anno di pausa. Il 10 settembre dello stesso anno invece il batterista Ipe Ivanč venne arrestato per possesso di hashish e venne sostituito da Didi Jaknik. La storia continua a lungo e urgerà a un certo punto parlare proprio di Goran. Quale pezzo però ho scelto per voi? Ho scelto Djurdjevdan, appunto, quindi Bialodugme, Djurdjevdan. Moje samotne Perché non parte? Ecco, è partita. E appunto questa era Jurjev Dan. Vi stavo raccontando appunto la storia dei Bielo Dugme, dove suonava appunto Goran Bregovic. Dopo la prima parte heavy metal, poi hard rock, negli anni 80 c'è una... nella seconda metà degli anni 80 uscirono gli ultimi due album e è la virata verso il folk. Modificarono profondamente il loro stile avvicinandosi maggiormente al pop, ma soprattutto rielaborando il patrimonio della musica tradizionale e del folk balcanico, riuscendo a dare una veste rock e sonorità a temi e tempi musicali tipici delle culture jugoslave. La critica musicale di Zagabria, forse in maniera un po' spregiativa, definì questo nuovo composito genere rock pastorale, in quanto in queste nuove fasi Bregovic proponeva suoni e temi poco urbani, preferendo motivi etnici e popolari. Comunque uscirono gli ultimi due album, alla fine degli anni 80, che accentuarono l'ispirazione folk. Pliuni i Zapjevac Moja Jugoslavio, Sputa e canta Mia Jugoslavia del 1986, che presentava gli elementi di jugoslavismo in un paese in cui iniziavano ad emergere i diversi nazionalismi, e Ciribiribela del 1988, che conteneva quello che avete appena ascoltato, Durdevdan San Giorgio, brano intriso di sonorità zingare dedicato alla festa cristiano-ortodossa di San Giorgio. E niente, quindi questo era un po' il racconto dei Bielo Dugme. E siamo anche a conclusione della puntata, che deve finire, deve assolutamente finire, perché poi dopo di noi ci sarà l'Accademia della Brusca. Molto importante, rimanete sintonizzati per sentire questa nuova puntata sulla nostra lingua. Mentre noi invece abbiamo finito, abbiamo parlato di Serbia, abbiamo parlato di Croazia, di Cecenia. E chissà di cosa parleremo la volta prossima. Ci sentiamo non il prossimo giovedì, ma quello successivo, sempre alle 18.30 su Radio Wombat. Vi ringrazio veramente per l'ascolto. Ci sentiamo fra due settimane. Allora, non mi resta a dire Yuri!